startup. Per Radio Cirano Web abbiamo con noi Catiuscia Eroe di Legambiente, che oggi, in occasione della conferenza stampa che appunto Legambiente tramite Goletta Verde sta facendo qui all'area marina protetta, ci parlerà un po' della problematica in generale che spesso anche noi italiani in qualche modo sottovalutiamo per quanto riguarda le ricadute sull'ambiente e sulle acque, soprattutto delle nostre coste. Prego. Sì, è esattamente così. Diciamo che anche i monitoraggi di quest'anno dimostrano e testimoniano come il grande problema di questo paese sia non solo la depurazione ma anche gli scarichi illegali. Questo vuol dire, come dire, non soltanto avere peggiorare lo stato di salute dei nostri mari, ma anche avere tutta una serie di rifiuti che ci troviamo nelle spiagge. Ovviamente stiamo parlando principalmente di plastiche, queste poi sono materiali che si disgregano all'interno delle acque, vengono ingerite dai pesci e poi, come dire, banalmente ce le ritroviamo nei nostri piatti. Quindi, come dire, un problema ambientale ma anche un problema di salute. Ovviamente questo è anche un problema che si ripercuote dal punto di vista economico. Pensiamo che in un luogo così bello arriva un turista, trova un luogo sporco, ovviamente non parliamo del parco ma parliamo della regione Abruzzo, che al di là del parco ha tante altre zone di pregio che andrebbero maggiormente valorizzate. Però trovare ad esempio un turista, ripeto, che viene, trova un luogo sporco, non soltanto lui non torna, ma poi esiste il valore del passaparola. Quindi vuol dire, come dire, danneggiare e continuare a danneggiare una regione che invece potrebbe offrire molto di più. Ma cosa dovrebbe cambiare secondo lei nella politica, ma io direi anche nell'atteggiamento civico della gente? Entrambe le cose, ovvero la politica, consideriamo che il tema degli scarichi illegali e della depurazione è un problema atavico nel nostro paese. Siamo nel 2017 e in Italia ancora un cittadino su quattro non è servito da depurazione, ovvero questo vuol dire che scarica direttamente in mare, nei fiumi o nei nostri laghi. Quindi prima cosa deve cambiare l'impegno da parte delle amministrazioni nel voler capire che questa è un'infrastruttura necessaria e urgente, mentre noi continuiamo a voler investire su infrastrutture inutili, anzi che danneggiano molto spesso l'ambiente, i nostri mari, vedesi, come dire, no, tutta la storia energetica, petrolifera, di estrazione, che anche ieri abbiamo appunto fatto, come dire, il blitz a Rospomare. E dall'altra parte però devono cambiare anche gli stili di vita dei cittadini. È assurdo pensare che nel 2017 noi nelle spiagge troviamo ancora una grandissima quantità di rifiuti che provengono direttamente dai nostri WC. Quindi vuol dire che i nostri cittadini, tutti noi, continuiamo a buttare i rifiuti nel WC, questi arrivano ai nostri mari, arrivano nei fiumi, arrivano nei laghi e poi, come prima, ce li ritroviamo nelle spiagge e ce li ritroviamo nei nostri piatti. Grazie, in bocca al lupo. Anche a voi. Ne abbiamo bisogno. Abbiamo con noi Giuseppe Di Marco, presidente regionale di Legambiente, al quale chiediamo un commento sui dati appena diffusi da appunto Legambiente, da Goletta Verde, circa la qualità delle acque abruzzesi e in questo caso anche delle nostre acque, diciamo, teramane. Ecco, come vede questi dati, queste analisi? Quest'anno rispetto all'anno scorso possiamo dire di avere un monitoraggio in più positivo rispetto alla passata, al passato risultato. E certo è che la situazione di criticità permane, per questo motivo bisogna accelerare a livello regionale sugli investimenti messi a disposizione per le nuove depurazioni, ma bisogna soprattutto accelerare negli interventi sul recupero delle realtà più critiche, perché da un lato le spiagge migliorano nei nostri monitoraggi, ma le criticità forti le riscontriamo ancora presso le foci e i fiumi. Quindi da qui l'idea di imbroccare una direzione sempre più forte per quanto riguarda la costruzione dei contratti di fiume, allargare il bacino in modo che possa essere uno strumento utile su tutto il territorio regionale, ma anche accelerare sul discorso della nuova legge sui fiumi, che da troppo tempo ferma in regione, perché la tutela di questo bene comune è un obiettivo di estrema utilità, soprattutto dentro la Regione Verde d'Europa, che proprio questi giorni ha firmato insieme con la nostra associazione una strategia che punta verso il turismo attivo e il turismo natura. Quindi mi pare di capire che l'appello in sé per sé è alla politica, che in qualche modo faccia presto, o anche un po' alle amministrazioni locali. è un po' rivolto a tutto il territorio, sia l'amministrazione regionale, le amministrazioni locali, ma anche gli operatori turistici devono contribuire a fare la loro parte con i cittadini. È cresciuta molto l'attenzione verso il problema. Giustamente sui depuratori questa, diciamo, collaborazione tra regione e comune deve essere accelerata, perché dobbiamo superare i localismi territoriali e mettere in campo rapidamente quei finanziamenti che sono già disponibili. E dall'altro lato bisogna sempre di più far crescere l'attenzione verso l'educazione ambientale e verso l'ambiente, che di fatti rappresenta oggi un attrattore turistico, in quanto i potenziali turistici e i turisti che oggi si riversano sulla nostra regione necessitano di un ambiente di qualità, e quindi tutto questo insieme ci deve dare una forza per spingere verso una direzione comune. Soprattutto i contratti di fiume, che in parte sono stati già avviati dalla regione, però devono essere potenziati, perché lì c'è quella sintesi di sinergia appunto fra istituzione centrale, istituzioni territoriali, privati, operatori, cittadini, affinché si parta da una strategia dal basso che porti a ridare la giusta qualità ai nostri fiumi. Grazie. Grazie della presenza. Approfitto anche per ringraziare il presidente del Parco che ci ospita questa mattina per la conferenza stampa e il sindaco di Pineto che ecco qui di fronte a me. Io lascio l'introduzione della nostra campagna alla nostra portavoce della Coletta, che ci spiega un po' i caratteri generali della storica iniziativa che Legambiente compie ormai da diversi anni nei nostri mari italiani, e poi entriamo nel merito della discussione territoriale. Grazie, intanto buongiorno. Io, come ho detto prima a qualcuno, sono molto contenta perché questo è il secondo anno che torniamo qui. E come vedete però dal comunicato stampa che vi abbiamo che è in giro, come dire, i dati anche sull'Abruzzo, come dire, non sono, si ripetono, sono dati in qualche modo storici che continuano a mettere in evidenza delle criticità molto forti, e ovviamente i monitoraggi che fa la Lega Ambiente sono monitoraggi che cercano di, come dire, analizzare e studiare quello che è lo stato di salute dei nostri mari. I nostri campionamenti si concentrano su quelle che sono le criticità, quindi andiamo in maniera certosina a ricercare le criticità dei nostri mari, e anche nella regione Abruzzo fiumi, torrenti sotto accusa, e in maniera particolare sotto accusa in realtà sono i sistemi di depurazione e gli scarichi illegali. Sono monitoraggi che in nessun modo si sostituiscono a quelli degli organi competenti, ovvero quelli delle ARPA regionali. I monitoraggi fatti dai nostri tecnici sono avvenuti tra il 25 e il 26 luglio e si concentrano ovviamente su quelli che sono i parametri microbiologici, enterococchi intestinati ed Escherichia coli. I risultati mettono in evidenza, come dicevo prima, un problema legato alla depurazione. Ovviamente siamo anche in questa regione, io ricordo che l'Italia è sotto procedura di infrazione, noi paghiamo 347.000 euro al giorno di multe e continueremo a pagarlo finché queste criticità non vengono risolte. Anche l'Abruzzo è colpevole da questo punto di vista, sono i 26 gli agglomerati urbani sotto accusa da parte dell'Unione Europea, e questo mette, come dire, in evidenza da una parte la mala depurazione e gli scarichi illegali. Consideriamo che in Italia un cittadino su quattro ancora non è servito da depurazione. Questo vuol dire che scarica direttamente o nei nostri mari, nei nostri fiumi, nei nostri laghi. Questo non ha soltanto una conseguenza sull'aspetto visivo dei rifiuti, ovvero il materiale galleggiante che vediamo nei nostri mari o che vediamo sulle spiagge. Anche tante altre conseguenze. E ricordiamoci che quello che vediamo è soltanto la punta del problema, perché poi nei nostri mari, nei nostri fondali, i rifiuti, la quantità di rifiuti che rileviamo è presente, che molte ricerche continuano a mettere in evidenza, è molto di più. Questo vuol dire che la maggior parte di questi materiali sono materiali plastici che si disgregano e che creano vengono ingeriti dai pesci e ce li ritroviamo in qualche modo nei nostri piatti, quindi un danno ambientale, un danno sanitario, ed è anche per questo che qui è presente Paolo Trentini del Sindacato dei Medici Italiani, proprio perché la connessione tra le questioni ambientali, le questioni sociali, le questioni della salute sono sempre, è sempre più evidente a tutti che sono strettamente legate. A fianco ai monitoraggi dei nostri tecnici, da ormai qualche anno continuiamo a monitorare i rifiuti che troviamo non soltanto sulle nostre spiagge, facciamo anche poi dei monitoraggi in mare nelle rotte in cui diciamo che percorriamo per arrivare nelle diverse tappe. Qui su questo tavolo trovate il risultato di un monitoraggio su una spiaggia palermitana e sono i rifiuti trovati in 15 minuti, quindi cronometrando 15 minuti. Come potete vedere sono per lo più plastiche, prodotti medicinali, ma anche questi bastoncini che vedete qui non sono lecca-lecca ma sono cotton fioc, ovvero i bastoncini che vengono direttamente dai WC delle nostre case. Quindi se da una parte sotto accusa sono le amministrazioni, perché è ovvio che il sistema di depurazione nel nostro paese è un'infrastruttura necessaria che va assolutamente migliorata, incrementata, dall'altra esiste anche un problema legato però agli stili di vita dei cittadini. Almeno io da quando sono piccola che mi si dice che non si butta nulla nel WC, siamo nel 2017 ed è paradossale che in Italia un cittadino su quattro non è servito da depurazione, ma che ancora i cittadini non abbiano imparato, come dire, non soltanto a comprare dei cotton fioc sostenibili, perché questa è plastica, ma anche come dire, che questi rifiuti vengono continuamente gettati nei WC. Non ci sono soltanto cotton fioc, ci sono anche assorbenti, ripeto, medicinali, blister e tanto altro. Questa è, diciamo, il quadro della campagna e dei monitoraggi che abbiamo fatto, e invece passerei ai punti campionati con Giuseppe. Sì, io per ringraziare dell'ospitalità lascerei un attimo un saluto al sindaco e al presidente del parco che ci ospitano, in modo che poi entriamo nel vivo della discussione. Grazie, buongiorno, grazie ancora a Legambiente di nuovo su questo giardino a parlare di qualità dell'acqua. Saluto gli ospiti, al presidente regionale, alla portavoce nazionale Legambiente, il sottosegretario all'ambiente regionale Mario Mazzocca, rappresentante del sindacato dei medici, il presidente dell'area marina, tutto il consiglio di amministrazione dell'area marina che è qui oggi, ai giornalisti. Cosa dire? Spesso si dice: queste cose le facciamo d'estate? Sì. C'è magari qualcuno che potrebbe dire: ma meglio farle a novembre perché siamo in mezzo alla stagione, però secondo me la lettura deve essere un'altra. Le facciamo adesso perché vogliamo far sapere ai cittadini che ci si sta prodigando per arrivare a migliorare la qualità, e quindi noi la prendiamo, la consideriamo questa occasione come un momento importante di miglioramento. L'area marina ovviamente insieme ai comuni ne fanno parte e stanno lavorando faticosamente. Ovviamente da sindaco so quanto può essere difficile, so la regione sta investendo molto, però ieri abbiamo parlato qualche giorno fa di accessibilità delle spiagge, quindi sono una serie di fattori che aiutano a raggiungere quel livello di qualità del turismo, non solo della salute ma del turismo. E ovviamente noi che siamo orgogliosi di essere protagonisti all'interno di un'area marina protetta, credo che questi momenti siano strategici e fondamentali. Un plauso grande a Legambiente. Sono 30 anni che gira l'imbarcazione? Un po' di più, quindi 30 anni sono tanti, insomma, che raccontate la qualità delle acque, e sono tanti anche per migliorarsi. Io spero che questo ulteriore appuntamento possa portarci il prossimo anno a segnare un passo in avanti in termini di qualità dell'acqua. Davvero grazie per quello che fate, consideriamo ovviamente questa occasione sempre come uno stimolo, a prescindere da dove sono stati fatti i campionamenti, dai risultati, se sono più o meno vicini a noi, ma comunque l'acqua poi è tutta la costa bellissima che abbiamo. Ovviamente noi in particolar modo teniamo a questo perché abbiamo la competenza su quest'area, ma sappiamo insomma che il lavoro è importante su tutta la costa adriatica. Grazie per quello che fate, e cercheremo di prendere i vostri stimoli come elementi per migliorarci, perché siamo coscienti che davvero c'è tanto da fare, soprattutto per noi, avendo scelto di puntare sulla qualità. C'è un lavoro che non si ferma mai, insomma, ogni miglioramento significa pensare al prossimo, quindi grazie ancora. Io adesso mi dovrò spostare a un altro tavolo molto simile, perché si parla di qualità delle acque idriche in questo caso, potabili. Però sta arrivando il presidente del consiglio comunale delegato all'area marina, che resterà con voi tutta la durata. Buon lavoro. Grazie signore, buon lavoro a lei. Presidente, buongiorno a tutti, grazie a Legambiente Noi con Legambiente abbiamo condiviso anche percorsi diversi. A noi fa piacere che ci sia questa attività di colletta verde, perché sicuramente è uno stimolo, è una spinta a fare sempre meglio. Noi come Area Marina, dal primo momento che ci siamo insediati come CDA, la prima cosa a cui abbiamo guardato è proprio la qualità delle acque. Ovviamente i problemi, è inutile nasconderli, ci sono, tant'è che abbiamo messo in campo una serie di iniziative, a partire dal contratto di fiumi in Abruzzo, che è stato il contratto di fiume, come dire, il più piccolo come bacino, no? Quindi comprendendo i torrenti e i fossi che sfociano in AMP, ma anche altre iniziative come il progetto Salva Acqua con lo zoo profilattico, proprio per il monitoraggio di tutte le acque bianche che vanno in area marina, il progetto Waco per il monitoraggio costante delle acque, questo per dire che comunque siamo molto attenti e cerchiamo di migliorare sempre di più quella che è la qualità delle acque in area marina. Certo, il problema della depurazione c'è, anche se noi qui i depuratori li abbiamo abbastanza relativamente lontani, perché c'è quello di Pineto che sta sulla foce del Vomano e quello di Silvi che sta sulla foce del Saline. Rimane il problema di i torrenti interni, che ovviamente non tanto per il problema depurazione, perché lì non ci sono depuratori grandi né piccoli, il problema è molto spesso di scarichi più o meno illegali o scarichi saltuari, anche cose difficilmente da individuare. E quindi con i comuni abbiamo cercato dal primo momento di muoverci in questa direzione. Ovviamente noi contiamo molto sia nella attenzione della regione per quanto riguarda il miglioramento del sistema depurativo, e contiamo molto anche con la sensibilità delle due amministrazioni comunali per far sì che ci affiancano in questo percorso che stiamo cercando di fare. Non è il problema del dato, che può piacere o non piacere, ma è il concetto generale. Io vado in barca e dicevo ai miei amici che, tornando da Tremi di ieri, abbiamo recuperato 7-8 cassette di polistirolo abbandonate, siamo fermati e andiamo raccogliendo perché un po' abbiamo questa fissa. Quindi il problema del materiale che arriva in mare, che non dovrebbe arrivarci per nessuna ragione al mondo, purtroppo il problema c'è. Ovviamente non voglio rubare spazio a chi parlerà dopo di me, ma il problema dell'inquinamento poi della catena alimentare è breve, perché se i pesci cominciano a metabolizzare microplastiche, il problema poi della contaminazione è presto fatto. Quindi lodevole questa iniziativa, e noi, come dire, siamo ben contenti che ci sia sempre bellissimo questo. Parlando di acqua, ecco, arriva giustamente l'irrigazione in automatico. Si può aumentare, non è male. Guarda che non ci piaceva. No, arriva anche qui tra poco. No, sì, arriva. Ma è fresca. Bene, grazie a Legambiente, grazie a Goletta Verde per questo stimolo che ci ha dato e che ci continuerà a dare. Noi faremo sempre lo sforzo massimo, proprio stasera infatti abbiamo questa conferenza qui, proprio per stimolare l'istituzione a cercare di fare meglio, al di là poi dei prelievi ufficiali. Il nostro problema è la qualità vera, non è chi fa i prelievi e i dati pubblicati, il problema è quello che sentiamo. Grazie Giuseppe. Grazie Presidente, con il passaggio del treno. Entro un po' nel merito della questione nostra abruzzese. A fianco c'è il sottosegretario Mazzocca, ne abbiamo discusso anche negli anni precedenti. E l'Abruzzo veniva da almeno tre anni di seguito, toccando un po' il picco della depurazione, ovviamente legato a tutto un problema di mancati investimenti, di una cultura che tardava ad essere un po' contaminata da una sensibilizzazione anche da parte degli operatori turistici verso il tema della depurazione. Oggi che cosa è cambiato rispetto al monitoraggio che abbiamo fatto negli anni precedenti? Sostanzialmente poco, perché le criticità vere le teniamo ancora dentro le foci, i fiumi, e su questo tra poco ci raggiungerà anche l'assessore Pepe, che è un po' in ritardo, che ha la delega appunto ai contratti di fiume. E la regione ha bloccato, a nostro avviso, le strategie opportune, innanzitutto gli investimenti fatti sulla depurazione. Però noi che cosa chiediamo in modo particolare? Chiediamo una sollecitazione che va nella direzione di chiudere rapidamente questi lavori, perché sappiamo anche le difficoltà che si incontrano nel dialogo con le amministrazioni territoriali. Pescara è un esempio anche per la chiusura del nuovo depuratore. Dal momento in cui si è pensato e si è realizzato, ovviamente i tempi sono troppo lunghi. Quindi su questo chiediamo una stretta, un'accelerazione, perché la sfida sulla depurazione può essere vinta, ma può essere vinta anche perché bisogna pensare a un sistema di depurazione diverso e anche legato a un modello di costruzione diversa dei nuovi spazi e di recupero dei vecchi spazi. Dico questo perché deve entrare nella cultura anche della rigenerazione e riqualificazione urbana l'idea che le acque bianche devono essere separate dalle acque nere, alla luce anche dei cambiamenti climatici e di quello che riscontriamo. L'evento tragico di Giulianova, che è stato legato al maremoto dell'ultimo accadimento, che diciamo nella parte nostro sud ci ha massacrato dal punto di vista della grandine e di altro, sono fenomeni sempre più eccezionali che finiscono col caricare anche i nostri spazi urbanizzati, e questa commistione portano a un fenomeno conosciutissimo, che è quello di far saltare appunto il sistema di operazione con un riversamento direttamente a mare. Ovviamente sono interventi di lungo periodo, però su questo almeno il cambio di mentalità lo iniziamo a registrare, anche perché gli operatori turistici, e non a caso abbiamo scelto come location quest'anno il parco Torre del Cerrano, perché loro hanno avviato un protocollo con gli operatori del territorio proprio per avvicinarlo in un patto di amicizia con il parco, perché tra virgolette la stessa sostenibilità ambientale è un brand turistico, è il brand turistico non solo di quest'area ma dell'intera regione, tant'è vero che l'abbiamo riconfermato in un protocollo sottoscritto proprio due giorni addietro. La criticità più forte però resta, nonostante quest'anno potremmo essere anche un po' tra virgolette sorridere, diciamo abbiamo un punto positivo in più, quindi quantomeno non stiamo ancora regredendo, si è creata una situazione di stallo. Nel discorso complessivo questo significa poco, però perché ci fa essere ottimisti, se ci possiamo spingere in questa visione? Perché l'attenzione è cresciuta, gli operatori hanno capito, si è capito anche a livello del tavolo regionale sul turismo, che non possiamo più prescindere dalla qualità ambientale. Le emergenze di quest'inverno, legato anche alla depurazione, sono delle sfide da vincere rapidamente anche per il riposizionamento turistico della regione, come dicevo prima. Però dobbiamo fare un ulteriore salto di qualità, a mio avviso, e su questo aspetto anche l'arrivo dell'assessore Pepe, perché i contratti di fiume devono andare oltre la dimensione attuale, devono cercare di tenere dentro il più possibile realtà di bacino. Io faccio l'esempio del fiume Pescara, cioè Pescara tiene dentro forse la sintesi della difficoltà della nostra regione. Parte da l'economia vecchia che ha pregiudicato e inquinato la nostra regione, riferendoci a Bussi, fino ad arrivare ai temi legati alle alluvioni che si riversano sulla città di Pescara, passando per le casse di espansione, tenendo dentro anche lo sviluppo turistico di quell'area. Non è possibile immaginare un contratto di fiume a pezzi. Bisogna avere un'idea di bacino, bisogna avere un'idea complessiva di questa realtà. Ecco perché approfittiamo di questa situazione per rilanciare su questo aspetto, e rilanciamo anche su un altro punto che a nostro avviso è da troppo tempo fermo dentro la regione, che è la nuova legge sui fiumi. Su quello chiediamo un intervento più forte, perché può essere uno strumento di maggior tutela di questo bene comune, anche per ripensare le azioni nel loro complesso. Analizzando nello specifico i punti monitorati, possiamo dire che La costa di Trabocchi presenta due criticità. Torino di Sangro quest'anno è entro i limiti, però Rocca San Giovanni e San Vito, che sono stati anche attenzionati da un punto di vista turistico, nelle loro foci mantengono quelle criticità che sono state, tra virgolette, oggetto anche di cronaca giudiziaria. Mi riferisco in modo particolare al Feltrino. Su Pescara manteniamo un miglioramento della spiaggia che ci dà un esito entro i limiti, però la questione dei fossi è sempre uguale. Quest'anno abbiamo attenzionato Monte Silvano perché c'è stata una forte segnalazione sul nostro SOS Goletta, e che è un'area a nostro avviso da tenere sotto controllo, perché nonostante abbia un grosso livello di balneazione, purtroppo risulta essere fortemente inquinato. Giulianova ci dà un dato positivo sulla spiaggia. Silvia è una realtà ormai consolidata che conosciamo da tempo insieme con la Val Vibrata, quindi questo ci riconduce a quella premessa che facevo prima. Gli strumenti sono stati individuati, le azioni in campo ci sono e bisogna spingere un po' l'acceleratore in questa direzione, perché la sfida della qualità delle nostre acque l'Abruzzo la può e la deve vincere, anche in virtù del fatto che è la regione verde d'Europa. Grazie Presidente, prendo la parola io perché purtroppo ho un impegno a Giulianova, dobbiamo, occupandomi anche di rifiuti, porteremo in attivazione un ecocentro che per la realtà giuliese è importante, anche per il sistema dei rifiuti. Grazie a voi per l'invito, siamo stati insieme ieri sulla Goletta a vedere da vicino una delle piattaforme ancora attive sul mare Adriatico, e quella dello Spumare. Ringrazio il presidente dell'area marina, Leone Cantarini, che è il consiglio di amministrazione, torno sempre volentieri qui. E molto velocemente vi do alcuni dati, ometto di parlarvi di prevenzione, soprattutto repressione del fenomeno dello scarico abusivo, per ovvi motivi di tempo. Vi posso solo dire che stiamo come regione collaborando in maniera attiva e fattiva con le forze dell'ordine per seguire un protocollo comportamentale che ci consenta di unire i benefici di questa attività all'altra che invece ci sta vedendo impegnati da oramai 3 anni in maniera importante. Il sistema depurativo regionale sconta ancora, per alcuni versi anche oggi, dei ritardi pluridecennali. L'intero sistema depurativo non vedeva degli interventi strutturali da oltre 20 anni. Per interventi strutturali intendo quei tipi di investimento che vanno al di là della semplice manutenzione ordinaria o straordinaria che sia. E quindi siamo fin dall'inizio intervenuti recuperando una importante dotazione finanziaria che praticamente a luglio del 2014 il governo se la stava riprendendo indietro per una innata inattività, qualcosa come 100 milioni di euro che derivati dal vecchio PAR FSC, che insieme ai 70 del decreto Sblocca Italia e ai 169 del Master Plan fanno un pacchetto di investimenti di 332 milioni di euro su oltre 200 sistemi e impianti depurativi puntuali sull'intera nostra regione. Chiaramente questi investimenti devono essere posti a definitiva concretizzazione. I lavori sono tutti in corso, abbiamo interventi conclusi per circa il 20%, questo fa sì che i benefici di questa attività non ancora si intravedono in maniera decisa e macroscopica. Entro l'estate arriveremo al 40% dell'ultimazione dei lavori. E entro fine anno contiamo di arrivare al 60% dell'ultimazione dei lavori. Certo, poi ci sono degli interventi strategici che necessiteranno di tempi maggiori, come l'ampliamento, trattiere adeguamento del depuratore di Pescara, o anche come il depuratore consortile del Tortoreto che seguirà, servirà una importante parte, la parte nord della costa teramana, con un numero di abitanti equivalenti di una certa dimensione, e quindi questi effetti verranno progressivamente, mi auguro, ma sono convinto che ciò sarà, verranno progressivamente verificati nel corso dei prossimi anni. Certamente dalla prossima stagione in più qualche situazione positiva in più rispetto a quella verificata oggi, credo che noi la avremmo, anche in previsione di una accelerazione sul tema dei contratti di fiumi, che non è assolutamente secondario. Noi stiamo facendo partire due siti di interesse regionale, il Salina Netto e il Chiediscalo, che comunque attestano i propri retaggi esperienziali di decenni di modo di approcciarsi al territorio non conforme, su tre aste fluviali di una certa rilevanza, come il Pescara, il Salina, appunto, e la Lento. C'è il tema che non ci può vedere indifferenti delle procedure di infrazione, però su questo va fatta una specifica, una puntualizzazione. Noi abbiamo in procedura di infrazione 20 impianti, uno che è quello di Lanciano, che è l'unico con il numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000, l'altro di Pescasseroli con l'abitante equivalente minore a 15.000, e poi ce ne sono 18, di cui 4 sono stati già affrancati dalla procedura di infrazione per impianti per abitanti equivalenti superiore a 5.000. Il tema è questo: su questi interventi, salvo quello di Pescasseroli e alcuni altri minimali, abbiamo già ultimato i lavori, ma la direttiva ci insegna come noi dobbiamo procedere attraverso le strutture preposte a 12 prelievi annui, uno al mese, e con un massimo di 2 prelievi che non sono conformi, 10 devono essere conformi necessariamente. Quindi, ai fini della operatività nei confronti della procedura di infrazione, noi comunque dobbiamo attendere un anno, a prescindere. Abbiamo cercato nell'ultima conferenza delle regioni ambiente e energie di trovare, insieme al commissario Roll, appena nominato dal governo, una via d'uscita, non dico una scorciatoia, ma comunque una via d'uscita progressiva. Se i primi 6 controlli sono positivi, cominciamo a vedere. Invece la direttiva a tal riguardo parla in maniera abbastanza chiara, quindi ai fini poi della progressiva uscita dalla procedura di infrazione, un fatto che ci preoccupa al pari di quella sulle discariche abusive. Noi stiamo bonificando qualcosa come 48 discariche, anche qui decenni di ignavia, però ce le troviamo sul groppone, così come quella sul piano di gestione dei rifiuti, che andrà, vi do un'anticipazione, in approvazione di giunta venerdì prossimo, dopo aver ottenuto il via libera dall'autorità ambientale competente, così come ci sono, oltre a queste procedure, c'è anche l'altra procedura di infrazione relativa al tema, sempre per quanto riguarda i rifiuti, delle vecchie discariche. Stiamo cercando di fronteggiarli e cerchiamo di farlo anche in maniera evidente e trasparente. Concludo questo mio intervento dandovi una anticipazione. Ha avuto problemi probabilmente il direttore generale dell'ARTA oggi, o verrà nel pomeriggio, credo, non lo ricordo bene. Farà parte della workshop che farete nel pomeriggio, in cui si approfondiranno alcuni temi e in cui lui sostanzierà maggiormente questa mia anticipazione. Noi abbiamo in programma, avendo già operato in tal senso, avendo realizzato già e costruito degli atti pubblici, di redigere il primo rapporto sullo stato dell'ambiente. L'Abruzzo anche qui non l'ha mai avuto, al contrario delle altre regioni. So che proprio da quest'area, proprio dall'area protetta di Torre del Cerrano, veniva fuori questa richiesta in maniera importante. A me Fabio Vallarola me lo diceva l'anno scorso, dice: ma perché non ci pensate a fare sta cosa? E alla fine, grazie anche, devo dire, al nuovo direttore generale dell'ARTA, perché voi ben sapete, col vecchio io non purtroppo era anche evidentemente una questione di scarsa simpatia reciproca, insomma, come devo dire, non mi ci prendevo granché, però credo che adesso un po' di cose in più si stiano facendo su questo fronte. Dobbiamo anche qui migliorare ulteriormente. Vi faccio un ultimo esempio. Diceva giustamente il sindaco di Pineto che bisogna in qualche modo cercare di sensibilizzare, credo anche da parte di qualcuno di voi, il rapporto con le realtà comunali, quindi con le istituzioni comunali. Io vi dico che, per quanto mi riguarda, avendo noi, per quanto attiene il sistema idrico integrato, 6 soggetti gestori su tutto il territorio regionale, ecco, di questi soggetti gestori, che poi sono quelli che materialmente progettano, realizzano ed eseguono i lavori e mettono in esercizio, ce ne sono alcuni che almeno dal 2015 in poi vanno velocissimamente, ce ne sono alcuni che vanno velocemente, ce ne sono alcuni che vanno meno velocemente. E vi devo dire che la Ruzzo Rete non è fra quelli che brillano in tale direzione. Io sono franco, le cose ve le dico come mia consuetudine, in maniera molto molto diretta. Adesso, se mi scusate, sì. Sì, solo approfitto rapidamente prima che vai via per dare anche noi una un ecocentro importante che siccome siamo ti lascio subito, Marco. Siccome siamo consapevoli della difficoltà del mettere a rete tutte le azioni necessarie per recuperare un gap che ci trasciniamo da diversi anni, quando si diceva la goletta, da quanto tempo? Certo. La goletta ha iniziato a monitorare le acque dei nostri mari quando il ministero prima manco lo faceva, quindi abbiamo creato questa buona pratica. E sappiamo anche delle difficoltà che si incontrano a livello regionale, anche da parte degli organi proposti alle attività, e quotidianamente si incontrano con queste difficoltà. Tant'è vero che il prossimo 21 ottobre stiamo coordinando insieme con i carabinieri forestali abruzzesi, il comando generale Ciro Lungo, un appuntamento formativo sulla nuova legge sugli ecoreati del 2015. Questo lo faremo appunto il 21 di ottobre prossimo. Stiamo ragionando su un'intera, è arrivato anche di novembre, lo faremo su un'intera giornata, in modo da tenere dentro sia gli aspetti nazionali che locali, proprio per cercare di venire incontro e di essere anche noi propositivi nel costruire un percorso che, attenzione anche all'aspetto della legalità, perché purtroppo il nostro ultimo rapporto Ecomafia evidenzia che questi reati tendono comunque a protrarsi nel tempo, e piuttosto che diminuire, purtroppo meno. Dino, ti faccio sedere tu. No, devo andare a Giulianova. Lo so che poi ci raggiungo dopo. Grazie a tutti, scusate di nuovo. Passiamo da un assessore di peso a uno, insomma. Piacere, Dino Pepe. Un assessore all'agricoltura e alla pesca, diciamo. Saluto l'arrivo di Dino Pepe. Prima di lasciarti la parola faccio intervenire il rappresentante dell'associazione di Menci. Bene, io sono molto felice di questo incontro, di questa giornata, perché è l'occasione per venire alla luce la vera e nuova vocazione del sindacato, nuova ma non recente, è appunto quella della programmazione sanitaria e della promozione della salute, monitorando l'ambiente, perché è tutto dell'ambiente che viene. Si fa prevenzione quando si controllano gli stili di vita, e l'alimentazione viene dal nostro ambiente. Noi parliamo di chilometri zero. ci vantiamo di questo chilometro zero, ma questo chilometro zero è veramente valido? Come poc'anzi si diceva, voci autorevoli parlavano di qualità degli alimenti, ma se i pesci mangiano queste microplastiche, poi noi che cosa mangiamo? Il pesce che contiene queste microplastiche. E allora parlare di salute, di prevenzione, non è una nostra vana ambizione, perché noi abbiamo un settore, quello della Simefa, che fa appunto ricerca e anche aggiornamento scientifico. E quindi con l'accordo stilato con Legambiente di recente formazione esce fuori una sinergia, e secondo me le sinergie delle risorse, delle potenzialità è quello che amplifica poi e garantisce anche i risultati. Questa sinergia, perché io vedo anche una certa similitudine fra il comportamento di Legambiente e il comportamento di un medico. Cosa fa un medico? Va a monitorare il suo paziente, lo va a valutare parametri normali, temperatura, pressione. E cosa fa Legambiente? Il malato cos'è? Il nostro ambiente. Ma se l'ambiente è malato, di conseguenza siamo malati anche noi. E se parliamo di stili di vita, se parliamo di benessere, il benessere viene valutato a 360 gradi, non è soltanto una prevenzione così campata in aria, è un vero e reale, una reale esigenza. Quindi applaudo a questa iniziativa e siamo felici di questa tappa della Goletta Verde qui in Abruzzo, perché noi dobbiamo conoscere l'ambiente dove viviamo. E per conoscerlo e apprezzarlo abbiamo bisogno anche di dati che poi usciranno da questo vostro incontro. Però in realtà dobbiamo vedere da dove nasce tutto questo. Nasce da una politica sbagliata degli anni 70. Adesso si parlava di depurazione, ma la cementificazione dei fiumi degli anni 70 viene da una politica sbagliata. Ma io non voglio accusare soltanto la politica, perché in realtà siamo tutti noi che con i comportamenti quotidiani individuali, ecco qui, il cotonchiocco raccolti in 15 minuti, mi diceva, ma quello non dipende dalla politica, sì, la mancata depurazione è vero, ma quello è il comportamento sbagliato individuale, quindi l'educazione non è ambientale, l'educazione in senso lato, la consapevolezza, le motivazioni, ma partendo dalla famiglia, partendo dalle scuole. E poi allora naturalmente possiamo pretendere anche noi dalla politica e dal resto, perché sanzionare, come diceva prima l'assessore, sì, ma quello è l'ultimo stadio. Già sanzionare significa è un fallimento. Sanzionare cosa? Già il rifiuto ce l'abbiamo, già il reato è stato commesso. E quindi è bene che ci sia dialogo e sinergia fra le varie risorse. E quindi il Sindacato Medici Italiani lo fa da sempre, almeno nella mia posizione, parlavo prima di portavoce, io non è che porto soltanto voce, ma interpreto in prima persona quello che penso. E quindi sono convinto che dialogando per l'ambiente, perché l'alimentazione e l'ambiente è la prima, la buona alimentazione, l'ambiente è la prima medicina valida. Bene, possiamo poi continuare il dialogo. Sì, io raccolgo anche questo racconto che tu ci fai, perché penso che anche l'attenzione sulla nostra regione, sull'aspetto della qualità della vita, della salute, perché la questione ambientale è sempre stata un po' distante su quelle che sono un po' le patologie indirette, no? Quando c'era il problema del buco dell'ozono, la paura di ammalarsi subito, rapidamente, c'è stata una risposta più forte. Per esempio l'attenzionamento anche verso i pericoli dei cambiamenti climatici è una realtà vista come molto distante, non c'è questa sensibilità diretta. E su questo penso che metteremo in campo a stretto giro un appuntamento che lega anche la qualità della vita ai problemi della salute e alla qualità ambientale. È un ragionamento che mi è stato sollecitato da più parti e presumo che faremo qualcosa in occasione della prossima primavera in questa direzione. Io intanto saluto l'arrivo dell'assessore Dino Pepe Questa mattina abbiamo presentato i nostri nuovi dati del monitoraggio. Dicevo, rispetto all'anno scorso, 9 punti attenzionati, 7 ci davano delle forti criticità, quest'anno su 8 ne sono 5. Un punto in più, se possiamo dire, di positività, però il quadro complessivo rimane ancora critico anche alla luce del percorso dovuto che gli investimenti messi in campo dalla regione sul tema della depurazione necessitano. E dall'altro lato uno degli aspetti che abbiamo voluto rimarcare è come meglio aggredire con i contratti di fiume questa criticità permanente che rimane appunto la dimensione dei fiumi stessi e delle foci abruzzesi, perché se possiamo tra virgolette fare una forzatura nella lettura, da un certo punto di vista la qualità delle spiagge migliorano, però le foci e i fiumi restano sempre tali, anche se è una forzatura che poi bisogna capire dove si effettuano i prelievi, perché la fonte poi della criticità rimane sempre tale. La regione ha fatto un percorso sui contratti di fiume, noi su questo chiediamo, lo diciamo da tempo, con forza di intervenire su bacini sempre più ampi, e prima facevo riferimento alla criticità del fiume Pescara che racchiude in sé tutta una serie di discussioni e di debolezze che vanno dalla realtà di Bussi al problema dell'alluvione di Pescara, alle vasche decantazione, allo sviluppo turistico e via dicendo. Su questo un incitamento che abbiamo sempre fatto, in modo particolare al tuo assessorato, nel mettere in campo una politica la più ampia possibile affinché soprattutto dal basso riusciamo a tenere dentro anche quei contenuti che si dicevano prima in riguardo all'educazione e alle buone pratiche da parte dei cittadini, un discorso di partecipazione collettiva. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, scusate il ritardo, saluto il Presidente dell'Area Marina, il Dottore, ma soprattutto saluto Goletta Verde. La sua presenza è un segnale importante per noi, soprattutto un segnale di stimolo per la nostra comunità, poiché io penso che il vostro lavoro sia di stimolo a livello culturale. Se noi raccogliamo tutto questo all'interno del nostro mare, significa che non abbiamo la consapevolezza della nostra natura, della qualità del nostro territorio e soprattutto non abbiamo il rispetto necessario verso i nostri parchi, le nostre aree protette, il nostro mare, i nostri fiumi, che sono davvero una criticità enorme. Sicuramente il collega Mazzocca vi ha anticipato tutti gli interventi e tutte le risorse che la Regione Abruzzo in questi anni ha messo in campo, soprattutto per quanto riguarda la depurazione dei nostri fiumi, gli impianti, tanti lavori sono già iniziati sugli impianti di depurazione da Alba, Tortoreto, scendendo fino ad arrivare a Vasto San Salvo. Ovviamente questi lavori sono in corso e ci auguriamo tutti entro il 2018 tanti di essi possono avere la soluzione anche a livello di lavori. Questo è un intervento assolutamente importante, così come la tutela del nostro territorio. La Regione Abruzzo, sapete, oltre il 40% del nostro territorio è coperto da aree protette, parchi nazionali, parchi regionali. Abbiamo un'attenzione particolare da questo punto di vista. Qui ci troviamo sulla Torre del Cerrano, l'unica area marina protetta del nostro territorio, e questa scelta lungimirante che è stata fatta da amministratori di queste cittadine, saluto Nerina qui presente, ma Luciano Monticelli, che è un mio collega in consiglio regionale, ebbero questa idea importante, e i risultati adesso anche a livello turistico sono evidenti, sono importanti. Ma non miglioriamo, perché i dati dell'anno scorso sono dati deludenti, i dati di quest'anno segnalano un timidissimo miglioramento. Ovviamente significa che questi interventi che noi abbiamo programmato come ente regione non sono stati portati a termine. Ci auguriamo che entro un anno o due tutti gli interventi sui nostri depuratori possano essere terminati e sicuramente avremo dei risultati migliori. Ma oltre agli interventi noi dobbiamo lavorare molto sul software. Io vedo il contratto di fiume un software importante per cercare di portare soluzione ai fiumi nel loro complesso. Pensate che per intervenire sui nostri fiumi si ha bisogno di autorizzazioni di circa 12 enti, province, genere civile, consorzi di bonifiche, comuni, una serie di enti che devono intervenire per cercare di trovare soluzioni al fiume. Il fiume invece può essere una grande opportunità, come lo era fino agli anni 60, e per questo il contratto di fiume è uno strumento di governo importante, fondamentale, strategico. Però, come diceva il Presidente, il contratto di fiume è un contratto che nasce dal basso, che è democratico e volontario. Quindi l'iniziativa che arriva dai comuni è assolutamente fondamentale. Noi in regione, questa è la prima regione d'Italia che ha proprio un assessorato al contratto di fiume, ci siamo dedicati sin dal nostro insediamento. Attualmente hanno iniziato il percorso oltre 18 fiumi nella nostra regione, sono stati costituiti tutti gli organismi che poi sviluppano le azioni strategiche sull'asta fluviale affinché l'asta fluviale non sia più una criticità ma possa diventare una risorsa dal punto di vista turistico, dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista agricolo, perché la valenza del fiume anche dal punto di vista sociale, economico, culturale sia una valenza che vada oltre. Adesso noi guardiamo il fiume come una grande criticità e avvicinarsi al fiume è un grande pericolo. E invece attraverso le politiche che i contratti di fiume possono mettere in campo, e poi le risorse ci sono soprattutto a livello comunitario, abbiamo risorse importanti, i progetti LIFE finanziano queste attività. Per questo noi come regione stiamo facendo un'azione di stimolo importante e fondamentale verso le comunità locali, abbiamo coinvolto anche le nostre università che hanno sviluppato delle ricerche importanti sui contratti di fiume in Abruzzo, siamo legati costantemente con il tavolo nazionale, con il professor Bastiani, per cercare di sviluppare nella nostra regione questa cultura del rispetto ma soprattutto del governo del fiume. In Veneto, in Lombardia, ma soprattutto in Francia, i contratti di fiume sono già la seconda, la terza generazione, quindi hanno sviluppato progettualità importanti. In Abruzzo questo seme si sta sviluppando e da questo punto di vista il nostro assessorato sta cercando di mettere insieme una serie di informazioni, una serie di strutture amministrative che possono consentire ai territori di sviluppare queste progettualità. Proprio qualche settimana fa abbiamo sottoscritto le 18 cabine di regia dei singoli contratti di fiume che abbiamo in Abruzzo e io mi auguro che soprattutto in provincia di Teramo questa azione possa essere ulteriormente sviluppata, perché abbiamo avuto delle iniziative anche con Pineto capofila, ma le dobbiamo sostenere ulteriormente affinché noi possiamo avere dei contratti di fiume completati, perché non basta la delibera di consiglio comunale per concludere il processo, lì si apre il processo, si inizia un percorso che è soprattutto un percorso di condivisione con gli enti ma soprattutto con le comunità, con le associazioni. Gli interventi anche che abbiamo fatto e stiamo facendo sulle piste ciclabili, non solo lungo la costa ma anche e soprattutto verso l'interno, lungo le aste fluviali, sono lì a testimoniare l'attenzione che c'è della nostra regione, della nostra programmazione, del suo complesso verso le aree interne e soprattutto verso i nostri fiumi. Ma l'impegno più grande è quello dei nostri cittadini, perché noi dobbiamo rispettare il fiume sempre, cominciare dalla sorgente per poi arrivare alla foce, e da questo punto di vista Legambiente, le azioni di Coletta Verde sono fondamentali per segnalare ma sostenere questo processo di educazione civica fondamentale ed importantissimo. Io come assessore all'agricoltura, e chiudo, abbiamo iniziato un percorso qualche mese fa sottoscrivendo un protocollo con tutti gli enti gestori dei rifiuti sulla raccolta differenziata in agricoltura. Sono azioni fondamentali affinché anche i nostri imprenditori agricoli diventino i primi tutori del loro territorio, dei loro terreni, delle loro attività, poiché tutti i residui che l'agricoltura produce non può essere bruciato, non può essere mandato al macero, ma deve essere riciclato. Tutti i contenitori, Leone Cantarini è un grande esponente del mondo agricolo vitivinicolo. E da questo punto di vista noi in tutti i settori dobbiamo sviluppare questa azione di consapevolezza forte, L'aspetto culturale è fondamentale, quindi quello che sviluppa l'area marina e questo contesto in maniera particolare è sicuramente utile per la nostra natura e soprattutto per il nostro futuro. Grazie. Grazie assessore. Io... Prego. Se posso vorrei sottolineare quello che ha detto l'assessore Pepe, giustissimo, che l'azione dei disturbanti e dei pesticidi utilizzati in agricoltura è un altro grandissimo tema da non sottovalutare, giustamente lui lo sta valutando, proprio perché molto dell'inquinamento parte proprio da lì, e lì praticamente la filiera è corta, perché dal cibo, dal disturbante all'alimento consumato, quindi chilometri zero, veleno zero anche a questo punto. E poi volevo anche sottolineare che io, come presidente di un'associazione, una ONLUS, Ultramontes ad Altum, ho fatto una ricerca in passato, finanziata dalla Fondazione Tercas a quell'epoca e poi anche altre, sul monitoraggio del permafrost sul versante terramano del Gran Sasso, perché tutto quello che sta qui viene dal cielo, precipita con pioggia o neve anche sulle vette, e noi sul ghiacciaio del calderone nel permafrost abbiamo rinvenuto inquinanti che non sono prodotti in casa. E allora qui veramente la globalizzazione, con l'evento di Chernobyl e poi in seguito anche con l'evento della centrale giapponese, in realtà non esistono più confini, non esistono più Europa e cortine di ferro. Le nuvole inquinate, come cantava anche il caro Bertoli, viaggiano, poi pensano che vadano a irrorare la terra che riarsa come in questi giorni, e invece in realtà portano veleni. Quindi il discorso è molto più globale, non è demagogico, non è semplicistico. Quindi c'è molto da fare, da lavorare, dal locale, dall'individuale, ma io parlo per me stesso, per le mie inadempienze, al globale, ma che esula al di fuori della portata del politico regionale o nazionale. E questo è il vero dramma. Bene. Sì, su questo aggiungo un fattore positivo ulteriore, cioè che è quello della sensibilità anche degli agricoltori. Anch'io vengo da una zona, è definita la zona rossa, perché c'è un'altra produzione di Montepulciano. E devo dire che gli agricoltori che prima questi rifiuti li bruciavano con estrema tranquillità, oggi chiedono di poterli gestire in modo diverso. E dobbiamo recuperare questo gap, però su questo abbiamo necessità anche di un coinvolgimento delle associazioni di categoria, a partire dal Coldiretti, dalla CIA, perché insieme con loro possiamo entrare meglio nella discussione anche culturale della gestione di quel tipo di rifiuto. E sicuramente ci aiuta, anche perché poi c'è tutto il discorso sul quale noi vorremmo spingere tanto, che la nuova visione dell'agricoltura legata un po' più all'agroecologia, al biologico, che ci aiuta ad andare in quella direzione anche di riduzione di quei contenuti come fitofarmaci che poi contribuiscono a inquinare le nostre falde. Se ci sono interventi, prego. Esattamente sui contratti di rifiuti, esattamente si porta in delibera regionale, che anche la formazione No, nel senso che noi abbiamo strutturato a livello regionale tutta una serie di percorsi anche per armonizzare a livello regionale quello che le comunità devono sviluppare per attivare un contratto di fiume. Come dicevo prima, il contratto di fiume nasce dal basso. Noi abbiamo portato un consiglio comunale. Benissimo, avete fatto una dichiarazione di intenti. Adesso quell'iniziativa va sviluppata innanzitutto attraverso un processo di ascolto dei vari portatori di interesse, operatori, associazioni, enti pubblici, affinché tutti possano contribuire per sviluppare l'azione strategica circa il fiume, quindi tutte le azioni da realizzare. C'è tutto un percorso stabilito dalla delibera 915-2015, penso, che bisogna attivare per portare a termine questo contratto di fiume e poi per portarlo all'attenzione soprattutto dei fondi comunitari per avere i finanziamenti necessari circa gli investimenti. Ci sono opportunità, anche fondi nazionali disponibili, in regione 2-3 contratti di fiumi sono stati già finanziati proprio per iniziare questo percorso di attenzione. Perché ovviamente l'inizio è la delibera di attivazione, ma poi il processo è... Ottavio è un esperto di contratti. Siamo il coordinatore qui nel contratto di Fiume. C'è il feltrino, penso che abbia avuto un finanziamento, poi uno vicino a Tagliacozzo, Fiume, non lo ricordo. Ma queste azioni possono essere anche, voglio dire, con i fondi comunitari sicuramente, con progetti LIFE, ma possiamo pensare di finanziarle anche con il GAC, con il GAL, con strumenti che abbiamo noi, che governiamo noi, che governiamo dal territorio, cioè il GAL, e questa è la prima volta, e certo nel piano di sviluppo locale, questa è la prima volta che il GAL è sceso fino a riva, perché i GAL erano solo un'opportunità per le aree montane. Con la nuova programmazione che abbiamo messo in campo del piano di sviluppo rurale, i GAL sono arrivati fino al mare, e qui si è costituito il GAL Terre Verdi, penso. E ovviamente all'interno dei loro piani, considerate che hanno risorse importanti, cioè il GAL qui ha 3 milioni di euro a disposizione, il piano di sviluppo locale, quindi l'azione strategica, può anche inserire 100.000 euro per un contratto di sviluppo. Così... E può anche, forse, dovremmo prenderci un impegno che ogni portatore di interesse metta in campo qualche cosa. Però siccome Nerina... partecipa al GAL, quello che dice... allo stesso tempo sta partecipando al contratto di Fiume, non è che la regione deve trovare direttamente... soldi, solo il via contratto di Fiume, magari al GAL partecipa con il progetto per poi. No, nel senso che siccome adesso pure il contratto di Fiume, questo è i GAL abbiamo fatto in modo che i comuni siano protagonisti all'interno dei GAL, e quindi sono una parte fondamentale di questo processo, e inserire all'interno dell'azione programma, del programma che sviluppa un GAL nei suoi anni di attività, ovviamente inserire anche un elemento sul contratto di Fiume, ma lo può fare anche il GAC, per esempio, ci sono anche i contratti di costa, i contratti di foce, di strumenti ce ne sono. Ovviamente poi i fondi comunitari, quelli diretti, sono lì a disposizione, lì sono più complessi, però insomma ci sono operatori bravissimi da questo punto di vista. Abbiamo presentato schede anche per Italia, Croazia, esatto. Però poi ci vuole tempo ed è anche difficile per farli passare. Per questo io penso che, ecco, quello di Tagliacozzo, il fiume di là, l'hanno inserito all'interno di un GAL. Una cosa semplice e immediata. Non tutti sono mirati. Cioè questo qui, io penso che Terre Verdi lo stanno completando il programma, Poi ci sta Pineto. Comunque ma pure nel GAC c'è. Per quanto riguarda però la questione dei contratti di Fiume, in particolare la parte di monitoraggio, di risanamento, anche attraverso piantumazione di alberature che possono fornire la presenza di cuscinetto autodepurativo nei confronti dell'agro fluviale. Questo è anche l'interesse della regione stessa, avere, a parte tutti i programmi, tutti europei, GAL, ma la regione stessa dovrebbe intervenire e dire sì, benissimo, qualche fondo si può prendere, perché avere un torrente, un fiume tutelato è interesse nostro. Non è solo far parte di programmi. Azioni dirette. Azioni dirette, sì. Dove c'è per esempio un'emergenza, che poi l'emergenza alla fin fine lo sappiamo qual è, quasi esclusivamente legate ai coliformi fecali, poi alla fin fine, quindi i coliformi fecali sappiamo benissimo da dove vengono, sono di carattere o animale o umana, quindi si sa benissimo da dove vengono, e porre dei rimedi dovrebbe essere anche abbastanza facile. Purtroppo abbiamo dormito su degli strumenti che non sono più utili, bisogna un pochettino cambiare tutto l'approccio per quanto riguarda la tutela e la difesa delle acque. Non vanno bene più quello che abbiamo fatto fino adesso, interventi tamponi su emergenze, depuratori, sono cose che non fanno più parte forse dell'altro secolo, adesso dovremmo fare dei passi avanti e questo non lo si fa ancora. Per esempio i depuratori non devono essere solo e esclusivamente depuratori, forse per un politico è facile dire va bene, facciamo un altro nuovo. Ma anche quell'altro nuovo avrà prima o poi delle difficoltà, scaricherà direttamente al fiume. Il problema è non far andare le acque trattate male nel fiume, quindi invece di farne uno nuovo ne dovrebbero fare uno a fianco a quell'altro per far sì che sia un tampone, poi si fa un impianto di depurazione dopo l'impianto di depurazione, in modo che filtra e l'acqua non arriva diretta al fiume, perché ogni volta che un depuratore c'è un problema va al fiume, siamo sempre punto a capo. Quindi bisogna studiare un nuovo metodo. Le acque non possono essere più mischiate, le acque nere devono essere nere, quelle bianche devono essere bianche. Non è possibile che nelle acque bianche ci vanno a finire anche quelle nere. Siamo sempre punto a capo. Si facevano noi passi una volta, quindi bisogna rifare tutto. Tutto. La rete bagnante, se ha dei problemi per legge, ha la possibilità di creare dei bypass e scaricare nelle acque bianche. Non è possibile. Poi alla fine i dati sono sballati e inevitabile. Ora bisogna cambiare completamente l'approccio. L'approccio politico su queste cose. Vabbè, non mi dico. No, su questo sono d'accordo anch'io che su alcune specificità occorrono degli interventi diretti, però io non sottovaluterei la riflessione che faceva prima l'assessore Pepe, perché noi la stiamo sollecitando da tempo. Allora, sul territorio noi oggi abbiamo la fortuna di avere più realtà che discutono le iniziative dal basso. Ed è proprio là che dobbiamo concentrare l'azione dei territori, perché è anche vero che l'attenzionamento da parte degli operatori turistici, per esempio, sulla qualità delle acque, noi ci rincorrevano quando arrivava Coletta. In effetti il fatto di dare l'ultimo giorno non era per creare un po' di suspense, ma per permettere alla Coletta di andare via. Oggi, se la Coletta è ancora lì alle nostre spalle, diciamo, c'è un attenzionamento un po' diverso. Cioè, noi sul territorio adesso abbiamo la questione dei GAL, che effettivamente hanno una disposizione di circa 3 milioni di euro più il bonus per i GAL delle aree interne. Abbiamo i GAC, abbiamo le DMC, cioè c'è una struttura, abbiamo i contratti di fiume, c'è una struttura che a livello territoriale può incrociare quelle realtà. Io sono pienamente d'accordo, figuriamoci, sul discorso di separazione acque bianche, acque nere, e ragionare anche su percorsi di filodepurazione che possano anche risolvere il problema del bypassare determinate realtà. Però giustamente su questo deve crescere anche la sfida nostra territoriale, perché a volte anche i localismi interrompono questo processo di dialogo. Ieri paradossalmente stavamo fermi al porto di Pescara, perché quest'anno abbiamo voluto toccare un po' il sud, il centro e il nord della nostra regione, e discutevamo insieme con il sindaco di Pescara del perché quella sera che c'era la festa di Sant'Andrea Francavilla a fianco faceva gli spari in contemporanea con la festa di Pescara. Cioè, questo per dire che cosa? Che proprio dalle esperienze del territorio, se riusciamo a creare sinergia anche con queste risorse già messe a disposizione, perché per esempio i galli che si sforzano di entrare nel merito dei contratti di fiume non è così scontato. E per esempio nel dialogo all'interno del DMC questo manca totalmente. Ho visto che la Camera di Commercio di Chieti ha avviato un discorso del contratto di costa sulla costa dei Trabocchi, una realtà che io conosco anche perché vivo l'esperienza sia del GAL della DMC del territorio. Però è anche vero che a nostro avviso dobbiamo avere la forza di spingere anche su modelli gestionali più forti, perché là la risposta definitiva, almeno da un punto di vista della qualità ambientale e del turismo di qualità, ce l'abbiamo, si chiama Parco della Costa Teatina. Però prima di arrivare a maturare soluzioni che possono essere definitive per noi e positive, potrebbe essere questo il campo su cui cimentarsi. Perché per esempio come Legambiente noi quello che ravvisiamo nella discussione anche a livello territoriale è che ci si ferma sui singoli pezzi. Ci sono tante buone esperienze, tante eccellenze che rimangono confinate in discussioni che non riescono a incrociarsi con altri livelli. Su questo dobbiamo trovare la forza di... Forse anche noi come ambientalisti dobbiamo spingerci un po' oltre e essere un collante nel mettere insieme tutta questa discussione. Perché comunque c'è una differenza: l'agricoltore che non brucia più il rifiuto pericoloso e si chiede dove va a finire, l'operatore, cito quello di Pescara, che non rincorre più il piano demaniale per avere un metro in più di spiaggia, ma per capire che... Siamo con l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe, ma in questo caso assessore delegato in qualche modo per i contratti di fiume dalla regione Abruzzo, e con lui vogliamo in qualche modo commentare i dati che stamattina sono stati diffusi da Goletta Verde per quanto riguarda appunto il grado di inquinamento, la qualità delle acque delle nostre coste. Ecco, a lui chiediamo come il contratto di fiume può incidere su questo tipo di problematica. Innanzitutto ringrazio l'area marina protetta e Goletta Verde che ha voluto sostare qui davanti all'area marina, davanti alla Torre del Cerlano, in questo luogo simbolo del nostro Abruzzo e soprattutto del nostro Abruzzo salubre e rispettoso della natura. I contratti di fiume possono ovviamente essere uno strumento importante per cercare di tutelare le aste fluviali abruzzesi. Abbiamo promosso nella nostra regione oltre 18 contratti di fiume a livello regionale, si sta facendo un lavoro importante soprattutto a livello culturale. I contratti di fiume nascono dal basso, sono volontari e sono democratici e devono essere promossi sostanzialmente dai comuni insieme ai portatori di interesse. I portatori di interesse sono le associazioni, sono i consorzi, sono gli enti che hanno interesse circa i nostri fiumi. Attualmente i nostri fiumi sono delle criticità, devono tornare ad essere delle grandi opportunità, ma soprattutto devono essere vissuti i nostri fiumi come luoghi importanti dal punto di vista economico, per l'agricoltura, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale. Il contratto di fiume è uno strumento importante da questo punto di vista, l'Abruzzo ci sta lavorando tantissimo anche qui e soprattutto nel Teramano. A conclusione di questa mattinata dedicata ai dati diffusi sulla qualità delle acque abruzzesi, ci troviamo in compagnia del presidente dell'area marina protetta Leone Cantarini, a quale chiediamo appunto una conclusione in qualche modo di questa prima fase, di una giornata dedicata tutta alla qualità delle acque e ai progetti che l'area marina protetta sta mettendo in campo per prevenire una serie di problematiche. Innanzitutto siamo contenti che Legambiente, quindi Goletta Verde, abbia deciso proprio questo sito di venire qui per la conferenza stampa sui dati del monitoraggio delle acque abruzzesi. Questo va a testimonianza di come l'area marina ormai sia considerata come un punto in cui c'è molta attenzione, si fa di tutto per salvaguardare l'ambiente, la tutela ambientale al primo posto dell'area marina. E si è parlato molto di alcuni dati di criticità, si è parlato molto di interventi a monte per prevenire e per qualche modo salvaguardare le coste. L'area marina in qualche modo come si pone rispetto a queste problematiche? Ma l'area marina sicuramente si pone su diverse vesti. Da una parte potrebbe essere la vittima, no, di una non gestione della problematica di tutela delle acque, soprattutto delle acque che sfociano in mare. In tutti questi anni, ahimè, purtroppo l'attenzione verso gli scarichi delle acque, sia bianche che acque depurate a mare, non è stata sufficiente e quindi oggi se ne subiscono le conseguenze. Quindi da una parte non vogliamo essere una vittima, ma vogliamo essere proprio parte attiva per far sì che questa inversione, che ci sia un'inversione di tendenza di questa modalità, e quindi ci siamo attivati già da quasi un anno e mezzo con il contratto di fiume per gestire appunto i torrenti e i fossi minori che sfociano in AMP, per andare a vedere anche la qualità delle acque, le criticità, gli scarichi abusivi e non. E dall'altra parte, con lo zooprofilattico abbiamo istituito quest'anno il progetto Salva Acque, quindi per il monitoraggio di tutte le acque bianche che sfociano in AMP, quindi dei fossi e degli scarichi delle piogge. Abbiamo il progetto WACA per quanto riguarda il monitoraggio in continuo dei fiumi e del mare. E chiaramente oggi pomeriggio ci sarà questo incontro con gli esperti e poi dopodiché sarà una tavola rotonda proprio con le istituzioni, proprio per sensibilizzare, perché l'area marina, al di là che porre l'attenzione, al di là che di trovare soluzioni scientifiche, quindi dare dati e avere tutta una serie di attività e iniziative per far sì che poi si, si possa intervenire, poi ovviamente c'è bisogno del coinvolgimento delle amministrazioni comunali in primis, di quella regionale, per far sì che tutto possa essere portato avanti per il risultato finale. Ovviamente la sensibilità delle persone, degli utenti e di tutti deve aumentare, questo è anche, diciamo, il ruolo che l'area marina sta svolgendo, cioè quello di migliorare la sensibilità, far accrescere la cultura della tutela. Un nostro comportamento non è un comportamento singolo, ma un comportamento che riguarda tutti, che influenza tutti, quindi le buone pratiche ognuno di noi deve farle prima per se stesso e poi chiaramente per gli altri. Ora, tutto questo è diciamo, quello che ci sta guidando in questo impegno, che è soprattutto quello della tutela delle acque. Poi i dati ovviamente non possono essere incoraggianti, ma i dati, voglio dire, non possono essere incoraggianti perché comunque c'è sempre da far meglio, a prescindere da quello che è il dato, magari seppur attuale, soddisfacente in un momento, quindi comunque bisogna lavorare per il miglioramento. Quindi ci sembra di capire, ed è il messaggio finale, che l'area marina protetta Torre del Cerrano non è rinchiusa in se stesso, ma è un po' il motore di tutto il territorio per quanto riguarda una crescita e un'inversione della cultura della salvaguardia e del rispetto. Ma sicuramente d'altronde è facile verificare questo, cioè basta guardare chi è che in questo momento è così proattivo per quanto riguarda gli scarichi a mare. Se facciamo il giro della costa abruzzese, probabilmente, ahimè, forse siamo gli unici. Questo non è che ci esalta, ma fa capire che da una parte che la sensibilità verso queste tematiche è ancora da venire. Dall'altra parte, chiaramente, fa capire che lavoriamo in salita e quindi in controtendenza e quindi dobbiamo anche combattere la non cultura per quanto riguarda questi aspetti. Grazie.